nessuno qua. E tu a chi vuoi? Sì, che avanti, buonasera, che è? Natalino sono. Ciao Natalino, buonasera, ben ascoltato. Ben ascoltato anche a lei. E allora cosa mi racconta? Sì, lo trovo. Tutto cava la batteria, dai. E lei come va? Tutto bene? E io ho difficoltà a respirare, questa influenza è un casino, piano piano, dai, che abbassa. E c'è la 50 letto che si sente male. No. E allora? Tutto sì. Se tutto va bene siamo rovinati. Fiorellino, ciao Fiorellino, buonasera, mi ascolti. Ecco da poco, da poco. Sto uscendo con la tenere gomma io, veramente a me. Non vi credi di babù? Mi ha fatto lì che ho la tenere gomma io, non ci crede. Peggio per lui se non ci crede. Io ce l'ho di plastica, per esempio, l'antenna. Ma te immagina questo, allumai. E oggi arrivi più basso degli altri giorni, Manuele. Già lo so. Cosa ti volevo dire? Ma non c'hai neanche possibilità di mettere una di quelle boomerang fuori? Almeno per sentirti un po' meglio, capito? Così sei più terra a terra, Emanuele. Ascoltare. Bisogna ascoltare. Io ci avevo una tariffa, aspetta, mi ammassa qua. Praticamente me l'ho dovuto rifare, capito? E qua sta arrivando quasi fondo scala. Sì, vabbè, ci stiamo a trospezzone, quando ti usciva vabbè, no. Un casino, adesso che avrò fatto i muri e vabbè. Ma no, sono le 6:30, no, perché alle 7:30 devo chiudere, che ci deve essere la partita, quanto ho capito. Mi ha già avvertito il tipo a spegnere. Che vuoi fare, se lo sistema l'antenna è un casino lì. Ma non può uscire sul tetto, hai capito? È isso, dove se la mette l'antenna questo? In facciata, la mette nella facciata, scusa, va bene lo stesso, non è un problema. Ma mi manca per millennia. Bisogna validare l'UVEA, dice a chi, o non ne abbiglia lui e Mandroni, però mette nei guai a me. Cazzo, manda il messaggio a mia moglie e chi da si incazza con me. Gioco della scopa. Che si incazza? La 50 si incazza perché manda i messaggi a lì. Io capisco. E vabbè, che ci vuoi fare? A guarda il traga di una sassari. Ui. Fiorellino, mi ascolti a me, sì. Ha detto, ma sicuramente Fiorellino non mi ascolta a me. Guarda, addirittura. Quindi questa antenna di gomma va bene, dai, diciamo, che funziona bene. Alla grande. Andare, dai. Un attimo che devo rispondere al telefono. Vabbè, Manuel, cosa mi racconti? Beh, scusa, non ti puoi avvicinare di persona. Dai, vai su Google e scrivi e dice dove. Tutti uguali sono i medici qua. Lui, per carità, pensa tu quale capa, vabbè, no, vabbè. Sono rauco pure, Emanuele, capito? Quindi la voce non è che sia un granché. Sì, sempre questo. Sì, va bene. Sempre quello, Emanuele. No, diciamo che va bene. La pagava. Sì, va bene, già va bene. Se non puoi fare niente, cosa ti pongo a pugna a te? Ma infatti, dai. Ti conviene lasciare tutto così, Emanuele. Poi, per carità. Modulazione che c'ha, pappa, figlia, MC60, e vabbè, la vai a minima botte. ten la centralina e va benissimo, no, non disturba nessuno giù, oh, Manuel. Antenna TV nuova hanno messo, con la centralina nuova, sì, no, adesso va bene, dai, diciamo, non disturbo, capito? Va bene così, sarà un casino, se disturbi è un problema, capito? Sì, in definitiva è così, Manuel, già lo so già, e vabbè, ci vuoi fare, quando non si può, non si può. No, io ho chiesto se disturbo, non disturba nessuno, se no avrei cercato di migliorare, perché non è giusto disturbare le persone, dai. Non è corretto da parte mia. Quando è così, il casino è quello che... disturbi, non puoi neanche modulare, non puoi fare niente, capito, Manuele? Brecco. Sì, registrato, avanti. Ehi, allora, ciao Manuele, ciao Franco, non so se ci sia altra gente, Gianni Doppio Ru. Ehi, QSL, ciao già, buonasera e ben ascoltato, dai. Un po' di raucidine, però già riesci ad ascoltarmi, sì. Ehi, hai visto ciò che ti ho mandato, Franco, ieri? Ehi, gliel'ho chiesto, però mi ha detto per il momento non gli interessava già. Vabbè, no, perché io pensavo a te, siccome sapevo che gliel'ha fuggito uno. Quello lì è un'occasione, la gabbia già se l'ho portata di zero, è nuova quella gabbia. No, diciamo che era un affare, dai. Infatti te l'ho mandato per quello, questa amica mia che ha ricevuto a sua volta da un'amica questa cosa, me l'ha mandata a me, mi ha detto guarda se trovi qualcuno per venderlo, perché il figlio non lo può più tenere, deve andare pure a lavorare, quindi lo deve vendere. Ho capito, cava, aspetta un attimo, vado a bere. Ma l'RMI ce l'hai provato, vai. Allora, non vedi più nessuno, dai. Oh, Fra. Dimmi. Ma l'RMI Italy l'hai provato? Italy. L'RMI Italy, in linea rete hanno regalato. No, non l'ho, già, non l'ho ancora collegato perché non è in Puglia. Domani lo provo. Fammelo sapere se funziona bene. Che magari mi interessa. Sì, ma non lo vendo io quello. No. No. Cava. Uguale al tuo forse. Eh? Ed è uguale al tuo, a quello che c'è tu. Non è uguale, se c'ha. Se è colorato, il mio è tutto nero. C'ha la manopola azzurra questo. No, il mio sono tutte nere le manopole. Domani lo provo e vediamo un po' come va a guadagnare. Ma da quanto è? Ma 300, ma secondo me non li dà 300, ne darà 200, 220. E infatti è così. Fra, ma tu QRM ne hai? Sì, un po' sì, però c'ho il filtro e diciamo che non ne sento. No, io no, non ne ho proprio nulla, è proprio come una telefonata. No, vabbè, io... Sì, un po', ma due, tre, non di più, capito? Cazzo, no, qua è proprio come se fossi... E presente quando vai in FM e chiudi lo scuro, ci uscire. Se mi dai un secondo lo provo, quell'applicatore. Ma io, provalo, voglio sentire. Lasciami te per collegarlo. Oh, io rimango in quel Rix, dai. Lo sai chi ti attende a quell'episodio di Chewy Bay? Ringraziamo di sé. Buonasera. Lo so, ma non ne voglio neanche io di parlare, là. Io rimango in ascolto. Va, andare, babbo, dai. Se non stai bene neanche tu, io piano piano sto migliorando, Natalie, è un casino, K. Va bene, Natalie, dai, ma è venuta a romperti le scale. E ieri abbiamo bisticciato pure. La giudizio mi denunziamo se veniva in occhi a rompermi le balle. Io non capisco. Non si può stare mai senza pace. Se la gente non è coerente con se stessa, oggi dice una cosa e domani mi dice un'altra. È logico che succede così. Vabbè. Ma lui voleva fare prendere la scala aerea per farla cambiare. No, non ne vuole proprio va. Non vedi che non lo so neanche io come definirlo. Oh, beve questa persona. Ma ce la può pure pure un balcone l'antenna, se poi però la vuole mettere su te. Ma cosa ne so, va, ne ho le scatole piene. Il giorno che mi decido parlo ugualmente, quando lui viene qua ricordo mi affaccia e riposto a caricare il rugurone. Sì, vabbè, poi dalla radio ci faccia il torto. Oh! Attenua, aiuto! Cosa? Attenua la radio! Aspetta! Pronto, sì! Guarda adesso! Vuoi? E se no, per attenuato, fra, lasciami lì! Spera un momento! Secondo scala e si è anche appena appena compresso. Figurati, oh you, casi canale. Ok, dai, adesso è staccato, com'è? Va bene lo stesso, va. Una bomba. Eia. Sì, sì, va bene. Che modello è, fra? Leggilo. Davanti c'è scritto. Aspetta. Dream modello. Via, è stato cancellato. Sì, vabbè. No, ma già funziona bene. C'è anche il preamplificatore d'antenna, tutto. Ecco, prova a usarlo quello, perché a me quando metto il preamplificatore me lo abbassa invece che alzarmela, fa il contrario. Adesso io lo provo, ma è attimo. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5. We am. Devi ascoltare a me con l'amplificatore, devi aumentare la mia voce, il segnale della mia voce, invece che diminuire, invece questo qua la diminuisce. Aumenta, aumenta già la tua voce. Aumenta? Sì. Da me forse perché troppo forte non ce la fa. Va bene, dai, ok, dai, già va bene. Camminando non li fa nulla. Non lo so, sono indeciso. Allora, lì non lo usi, in macchina non lo usi, allora lo vedi. Non lo so. Il problema è, in macchina ci devo mettere un'antenna che non tenga, capito? Ci vuole quella che dico io, quella tedesca che sto prendendo io, quella sì che è bella. Dammi la sigla di quell'antenna. Aspetta. Il QRM sta alzando qua. Stavo dicendo, cosa costa quell'antenna già? Vai su WhatsApp che te l'ho mandato. Ok, ce lo controllo. E non costa molto, solo che ti arriva dalla Germania, non è qua, non è in Italia, non è italiana. Tata, bella è, bell'antenna. Sì, però come fai quella? Con la base magnetica la devi usare. Sì. Allora, questa qua c'è la base magnetica incorporata. fatta, c'ha praticamente, se tu li togli la gomma che c'ha sotto, c'ha la stagnola e tappa tutto la stagnola. Se tu la vuoi usare la puoi anche smontare, però la resa non so se sia più quella, capito? Perché è fatta in modo che la stagnola li faccia da specchio riflettente, sicuramente, li faccia la massa. Ho capito, sì. È bella, una bella antenna proprio, non costa neanche molto. No, non costa nulla. Ti viene sulle 40 euro spedita. Ah, va. Ti è arrivata a te? No, non mi è ancora arrivata, ma l'ho ordinato. Cappa. È arrivata dalla Germania, fra, ci mette qualche giorno in più, dai. Adesso me la ordino precisa. Fai un affare, perché se avvenio un altro giorno l'ho sentito da stintino con 2 watt, fatti un conto. Sì, lo so, va bene. Se c'è 2 watt che è a Puglia, la grande. Ci puoi mettere anche quello di lineare. Infatti, quello da 300, che quello è una novità 300. Poi bella esteticamente. Se tu gli dai 5 watt ti dà 20 watt, se tu gli dai qualche cosa in più da 20 a picchi di 3, da 200 a 300 watt. Addirittura. Non distorce nemmeno, in lontananza non distorce, da vicino sì, ma in lontananza non si sente, anzi aumenta la radio addirittura, mi hanno detto. No, l'ho vista, è una bella antenna costruita alla grande, è fatta bene come antenna, diciamo, non è un'antenna così, già va bene. Cappa. 40 euro, cosa compriamo 40 euro? Bah. Io ho deciso, perché con la lab si stacca, se aumento la velocità mi si stacca. Invece questa c'è la calamita molto più forte di quella mia, pur essendo più piccola la calamita, attacca di più. Lo so, sì. La mia non era, diciamo, da degradare, perché cazzo, sono arrivato sempre a Santiago 9, 10, da tutte le parti arrivo bene, capito? Però è la magnetica, trovassi una magnetica come si deve mi lascerei quella, però ci vuole una magnetica, forse quella a tre piedi va meglio, ma ho paura perché cazzo, è troppo tetra come antenna, capito? Rimane rigida e quindi è quello che fa forza contro il vento, capito? E te la stacca. Quella che ho io è grande la magnetica, è un bel discone, capito? È quella cromata sopra. L'hai vista la mia com'è, che è grande. Ma non c'entra nulla la grandezza, è proprio il magnete che deve essere forte, che deve attaccare bene. Se non attacca bene, chi dà ragione? Io ne avevo una che per staccarla, era un casino, la dovevi strisciare per staccarla, se no non si staccava. Dritta così non riuscivi a staccarla. Come quella che ho io ne ho una che non la usavo, perché quando l'attacchi non la attacchi più, è un casino toglierla. A me mi serve così una magnetica buona, perché non ho intenzione di bucare la capota, capito? No, non bucare la macchina, lascia stare, che la rovini. A parte che hai potuto bucare la macchina, voi. La Panda già l'avevo bucata, anche la Station Vento. Io praticamente l'ho messa a posto di quella della radio, va bene lo stesso, capito? Ma è brutta, non mi piace la posizione, te lo devo dire. Non mi piace dietro, non mi piace o al centro o davanti. Sì, lo so già, ma io non voglio bucare la macchina, non mi interessa, capito? Lascio così. Anzi, addirittura la volevo anche togliere, figurati. Qui questa gloria. Cosa? A dolori, oi. E chi? Questo qua, se non lo sento. Non lo sento io. Adesso non si sente più, ma poco fa si è sentito. Non so cosa dirti. Cappa, riesci a vedere stazionarie, non vi mettiso. Se ti metti quell'antenna che ti ho dato io, lì spara forte. Quale? La Jägermeister. Sì, la devo mettere. Come migliora il tempo la butto giù questa. Ci avevi tutta l'estate, per farle non l'hai fatto, Già, tutta l'estate incasinato messo io. Ma lavorato? Sì, a parte quello, ma poi ero sempre fuori, capito? già se ti metti l'impegno già ce la fai. Io Giulia, tranquillo, non problem, vabbè, io sono pure avvantaggiato, ho studiato certe cose, le so già, quindi non ci sono problemi. Sarà un ripasso, sarà un piccolo ripasso, vedi, rifare. Beh sì, vabbè, ma c'è un po' di algebra, mi hanno detto, c'è un po' di algebra, se non sai l'algebra è un casino. Sì, già, ma sarà così difficile, no, questa cosa. Non è una patente da elio, è una patente C, una patente radioamatoriale, non è che sia tutte le cose fondamentali, diciamo, che le sto, capito. Ma se ti capita qualche calcolo di cose, di algebra, roba del genere, devi saperlo fare, capito? Quello è, lo è. Qualcuno si è anche ritirato perché non gli piaceva perché ci ha troppo algebra. Sì, vabbè, già se lo dico, provare non nuoce quello. Si prova e vediamo un po' cosa ne esce fuori, capito? O magari tu riesci a farlo così, non è che... molta gente si scoraggia perché dice che c'è molta algebra in mezzo. Ma cosa? Ma io sto seguendo quelle lezioni via internet di questo radioattore ingegnere che è un cranio. Ti spiega tutto dall'A alla Z, capito? Dalle resistenze, le induttanze, tutto, dei saturi, corrente elettrica, porta motrice, tutte quelle cose lì, antenne, tutto. Allora va bene, se c'è su internet va anche bene, è un aiuto, dai. Io ogni sera lo seguo, capito? Adesso oggi non ne ho fatto, l'ho fatto stamattina a lezione, quindi stasera l'ho mollata. O la faccio la mattina o la faccio la sera, perché se no poi mi incasino troppo e non ci capisco più niente. Ma infatti, non conviene esagerare, dai. Se ti viene facile quello che sta spiegando, ti viene facile capirlo oppure hai problemi? No, va bene, tu pensa che io ho fatto anche il quiz, su 30 domande ne ho sbagliato 5, capito? Va bene, dai, va bene, se ci riesci fra fallo, se ti interessa, a me non mi interessa farlo. Proprio non mi ci metto perché non mi interessa, non la giocare, la manco di studiava, non ho la testa per studiare, dai, non ne ho voglia. Sì, vabbè, io la voglio prendere perché voglio cambiare, provare altre frequenze, capito? Provare altre cose. E perché non le conosci le altre frequenze? Non lo fai l'ascolto. Sì, vabbè, per me piace pure parlarci, non ascoltare solo, capito? Vabbè. Io ne ascolto anche poco perché non mi entusiasma più come prima, non lo so, me l'ho preso il ricevitore, è bello, mi fa, piglia tutto, piglia anche la M, c'ha tutto l'SB, USB, c'ha frequenze 10 metri, 80 metri, 40 metri, prende tutto. Ho capito, vabbè già, ogni cosa viene e passa, perché passa la passione delle cose e le butti da una parte, capito? No, ma perché prima potevi ascoltare diverse cose, capito? Vabbè, oramai è tutto diverso, tutto è digitale adesso. E infatti, non ci vediamo. Sì, qualche volta me lo accendo, ma la sto usando più come radio. Io mi ascolto la radio RDS, quando sono sdraiato, mi guardo il cellulare e mi ascolto la radio sottofondo e me la sto usando per ascoltare la radio, più che altro. Ma prende tutto, mi radio private, tutto prende. È piccolo ma sincero. Beh, sei fatto bene come dicevi tu. È tutto digitale, è touch screen, c'ha la penna per girare. E ultimo zicchirio, dai. Ultima generazione, dice quella. E ultimo zicchirio, se sarebbe. Vabbè. Gaffa. Vabbè. Ma già... è bello, non te l'ho mandata così. No, sì che me l'hai mandata la foto. È bello, vabbè. Costa anche un po'. pochino, costa 160 e passa. Quindi sono quelli grandi, la stazione base, che ho visto della Kimball. Quelli sono belli. Ma gli AES sono migliori forse, come ricezione. Non lo so, io ne ho visto uno della Kimball, ma bello veramente, tutto digitale, di lusso. Ma per quello mi piglio un 440, un 140, è la stessa cosa, sì, 80. E così puoi anche parlare in AM. Se per prenderlo così, ricevitore così grande, mi prendo, perché lì costano quanto un apparato radioamatoriale, quanto un Kenwood. Lo so, ma qua io ti conviene prendere un apparecchio un 440, un 680, un 140 e fai tutto, capito? Io già lo so, però non è il momento adesso. E va bene, okay, ti sto dicendo, quando c'è la possibilità ti prendi uno di qui di già, con la baracchini, voi sono soldi buttati i baracchini già. E ma io ci sono i baracchini simili. Sì, vabbè, ma sono sempre baracchini. Sempre baracchino è già, mi capisco, la devo dire io. Quello sì, ma diciamo che qui gli apparatini sono già usurati, i componenti, che da un momento all'altro ti può partire qualche componente e poi chi te li aggiusta. Tu metti la giusta comandi su alla Kimbudu e lo metto a posto lì. Ma qua non c'è nessuno, tocca spedirlo, fa la sua di spedizione, un sacco di gasino. Vabbè già, però ti mettono la radio a posto e te la lineano, capito, fanno tutto quello che c'è da fare. Ci butti 100 euro, però sei tranquillo e te l'hanno perfetta. Se non di più, 2,50, già spendo di più di 100 euro. Vabbè, quello dipende sempre cosa gli fanno dentro, capito? Cosa c'è da fare. Quello sì, che è vero, vero. Con questa radio, come stai ascoltando, fra, questo qui è 3009. Benissimo, va bene, sì, di lusso. 5 watt, la grande. Sì, questa è una bella radio, vedi, questa l'ho sentito a Marco, parlando a Marco Condor, mi ha entusiasmato per come usciva e me l'ho presa anch'io. E Superstar è una bella radio, è stata sempre una radio di lusso, io c'è quel 3009 Superstar. Questo qui c'è anche il 3009 Superstar, nuovo. E io, perché vecchio ce l'ho comprato nuovo. Poi se ne giù alla Danusia me lo portare su, perché ce l'ho lì, capito, da Luigi. Come va, le lasciate? Sì, perché ce l'aveva il furgone, ci deve essere anche l'antenna sui magazzini. Ma se andate a pigliarti io? Ci faccio un salto e me lo recupero. L'antenna era una Sirio una Sirio al carbonio. Di quelle vecchie. Ho capito, sì. Vabbè, fra. La duia, ti rapiti. Gianni! Che bella! La voce mi sta mancando, che strano, non ci riesco a farlo. E non va bene, e non mi esce. Senti, aspettate un attimino, vado in bagno, c'è. La voce, guarda io come sono, Luca, rauco, che non ti puoi subire. Io c'avevo un po' di tosse, la vita mi è passata, sta passando. Ho fatto una bella cura di latte e miele, anche che sciroppo. Capito, gatto. Vabbè, io voce non ne avevo, latte, miele, sciroppo, antibiotico, di tutto e di più. Vabbè, oggi già sono meglio, Luca, quindi non ne ho problemi. Tutto qua, e un po' rauccini, non c'è che va. Andare. Chi è che vuole entrare avanti? Che è? E quindi non stai uscendo, Luca. E che avanti? Avanti, Giulai. A chi già? Questo stava facendo ora. Ma che lo sento 7-8 qua da me. Propagazione. Ah, ecco. Lugariello. Lucrezia. Lucrezia. Ui, ui, ui, ui, ui, ui. Deserto stasera, era. Stasera, è sempre così. No, non è vero, vero. Ti contraddico perché l'altro giorno era pieno di niente. E la giornata, ma stanno ascoltando, non ti preoccupare. Sì, c'è un po' di gente che ascolta. Non entra, ascolta ma non entra. Sì, dai, arriva, la potremo da me. Scusa, già, stavo mandando un messaggio audio, non ti potevo rispondere. Non c'è problema, Luca. Chi aveva di così di nuovo la bella di qua, mi già via, che ha l'elezione, ma non va rivolti, e se di qua, mi già via, ma la devo chiamare. Non c'è problema, brade, brade, brade. Gabba, gabba, gabba, gabba, gabba, gabba. Attenzione, prendo da riporni la gente qua, vita mia, frate, che è senti qua la vita mia, che è mi sono guardato la Ford Fiesta del 1892, 10 euro. 10 euro, solo. Allora. Ma cercando macchina, sei Lucre? Guarda che c'è quel napoletano, se ti interessa, quello lì le vende a prezzi stracciati, non so se i fratelli Manno, buh. Ah, ma non napoletano, non mi piace. No, un amico mi carico, devo adesso se mi comprava, che non ha 600, che mi sta bene a me, si valigano, non deve valigare nessuno. Basta che abbia l'idroguida, che si è messa bene di motore, poi la carrozzeria alla fine non mi dà possibilità di andare. Stiamo a spandare molto. Ehi vabbè, ma se fai bella figura invece che uscire con la macchina di zigari, è meglio. Perché la macchina di zigari? Che bella la 600? Corina, questo va poco. Mi dà puttana vedere la macchina grossa, ma puttana assai. No, quello no, ma io ti ho detto, la macchina di zigari nel senso che sei tutta gatta ammaccata, tu di carrozzeria non me la futti, sei tutta gatta ammaccata, puccia mari, è fea. E no, una 600 va bene, ma va bene anche una Panda di quelle nuovo tipo. Ma quella costicchiano, sì. Un aggiudinaio già. Non ne ho, ormai sono già dati qui studio, lo sai benissimo. 3.000 euro la stavano vendendo con 80.000 km mi pare. Che sono 3.000 euro? Ma paura. No. Insomma, come ci sono fatti 3.000 euro? Tu mi dici la banda, banda, banda per andare. Sì, banda a cacciare. A tutte le parti ti porta la banda. Banda cunda. Ecco lui. Ecco lui, arriva lui, Gianni Bello. Non si dico la rima perché... ecco, dai, butti la rima. Male d'un coso, dilla. No, si può dire. Può male. Non sei uscito lui. Sì, sono andato... Devo comprare un lupetto, il golfo, la golfola con lo altro. Perché sono stato per lo freddo. Ci sono sceso la muraglia, si apre la niente. Poi da lì sono andato quello che c'è vicino a Bricoman. Non c'è un golfino un po' pesantuccio, da c'erano quelli leggeri. Poi da lì sono andato da Eurasia. Non so come si chiama Eurasia, ma andavo anche in Chile. Allora niente, da lì sono andato a Copacabana, al mar. Perché siamo la bici, ma tu scarichi. Mi sono caricato un po' la batteria. Nel mentre stavo caricando la batteria mi sono bevuto una birretta. Mi sono mangiato anche una pasta con la crema. E niente, come se non sono andato a casa. Ah, te la fanno caricare? Sì, mi riconoscono. Beh, sono rimaniato di dire, che se posso caricare la batteria. L'ho staccata e l'ho colata dentro. Ah, bene, bene. Sì. Andà bene. E a mangiare i sushi non ci sei mai andato? Non mi piace. Non ti piace? No, ma finisci. Poi mi stavo la ragazza che è morta di 40 anni. Ehi, quello lì è un caso. È morta anche una mangiando tiramisù di 20 anni, poveraccia. Oh, Ed era tiramisù che mangiavano tutti, solo che lei era allergica a quel tipo di latte che hanno messo e ed ha fatto, le è venuto uno shock anafilattico e ci è rimasto. È un casino, perché vuol mangiare può morire, non muori solo con l'alcol, con la droga. Vabbè, con la droga si sa che si muori, pure con l'alcol. Attention my friend, Italy from Sardinia, Delta Romeo, Italy from Sardinia. Attention my friend, ascolti Italy from Sardinia. È scesa, fatta un bel forte. Attenzione, Franco California, vita mia, fratello, vieta che Franco intanto scompare. Vediamo un po' se c'è Gabino, ci sei all'ascolto. Vediamo che sono forse che si. Questa propagazione, devono essere americani, inglesi, boh. Attenzione Franco California, se mi vuoi proprio mio, chiede. Quindi l'hai trovata già la macchina, Luca? No. Stavo controllando su marketplace, che si chiama. C'è una Fiat 600 abbastanza nuova, con 86.000 km, alta cristalli elettrici, aria condizionata nuova, 2005. Quella è buona, là. Quella è un'occasione. Ma si trova a Nuoro, ci ripara a Nuoro. Te la fai portare. E se cos'è il discorso già? Prendere le macchine così, la scatola chiusa, è un casino. E andare con un meccanico di fiducia e così la controlla. Qua. Le concessionarie hanno le macchine, però te le fanno pagare, sono controllate, sono già tutte quante revisionate, quelle che ti danno le controllano loro, le cambiano l'olio e tutto. Però te le danno a prezzi superiori, normale. Beh certo che sì. Però ci vuole sempre un meccanico di fiducia, Gianni. Io guarda, tutte quelle che ho comprato, le macchine a seconda mano, vabbè ne ho preso poche, ho preso solo 127, 227, uno diesel e uno benzina e una 500, poi le altre le ho avute tutte nuove e mi sono sempre andate bene, la verità. Sì, sì, immagino, però ripeto, bisogna sempre, aspetta un attimino. Se non fa e per chi se ne intende la può riparare. E non è che devi avere fretta, devi controllarla se ti va bene. Naturalmente se più la trovi nuova è meglio, non è di meglio cattarlo, deve durare un po', dai. Ma infatti, ma ripeto, sempre un meccanico di fiducia, lui è controllo e vede, capito? Perché quindi una macchina la batteria da così. La voce della macchina aveva problemi, succede che poi sono fregato, non mi tornano i soldi. Lu, la macchina provandola può andare bene e poi darti problemi dopo, capito? È quello che c'è, ma devi avere solo un po' di fortuna tutto lì, perché io te lo ripeto, non sono mai andato con un meccanico, sono andato io, l'ho provata io, la macchina mi è piaciuta e l'ho presa. La prima che ho preso era la 595 Giannini, faceva 130 nella salita di coso, ma nella discoteca di Marini lì. Non so adesso come si chiama, anche la salita che c'è. Non sono andato a 130, ho superato una Giulia che insomma mai dato, però faceva 9 al litro, l'unica cosa che consumava un bel, che aveva carburatori doppio corpo, era tutta carta preparata, quella faceva le gare, capito? Perché poi l'ho vista in una fotografia da un elettrauto, ma questa è la macchina che c'ho io, la targa è la stessa. Dice sì, questa la preparavo elettricamente io. A Ottava, te dicevo, la sede d'Ottava. No, lo sai dove? Praticamente dove c'era Bresci Ressi, dove c'è Bresci Ressi, scendeva giù c'era un elettrauto. E dopo, boh. Mi resi resi che viene Porto Torre, sei giù. Non lo conosco. Quello che vede i pezzi per le macchine sportivi. Ah, ho capito, sì, sì. Già, ma ripeto. Quando si comprano un mezzo, la macchina soprattutto una volta, ci va sempre il carico di fiducia. E tu ce l'hai? Sì, studia. Pitto, sei bravo, molto bravo. Mi fa l'ancia, Fiat. Ti fa anche la, la diagnosi, capito? Se vuoi. Sei molto bravo, onesto come prima, perché chi gli ha fatto a mettere la posta a un lastro la macchina io. Se passava la posta gli ha chiesto 2000 euro per sistemarla. E con 650 euro gliela ha sistemata Giuseppe. Frizione nuova, se passava, saltavano anche le macchine, era tutta sistemata, 650 euro. Visto. Vabbè, comunque quei prezzi alti così io non l'avrei riparata, l'avrei versata e presa un'altra. Troppo. E io guarda, ho sbagliato con l'asta perché me la volevo tenere, gli avevo cambiato tutte le gomme, tutte e quattro le gomme, messe gomme buone, Continental. E poi gli avevo cambiato la bobina e la batteria, insomma le avevo fatto un po' di spese e poi mi si è sfasciata un'altra cosa perché la macchina c'aveva già sui anni, aveva già 350.000 km, non l'avevo dovuta manco aggiustare. Beh, lo sai che la macchina mia sta ancora camminando a Sassari, dopo che io gli ho fatto questi lavori qui non ha più avuto nulla e sta andando sempre. Ha fatto questo qua che l'ha comprata, l'ha trovato un amico mio e ha fatto 350 km tutti insieme in Continente. La che a tuo punto cos'è? L'Astra Station Vego, cazzo, c'è un Vego, io non te lo ricordi più. Ah, sì, sì, a come andando sta? Eia, se tu vai all'Argo Ittiri c'è la, un cameriere che lavora in un bar lì, e lei è sempre parcheggiata all'Argo Ittiri. Sta ancora andando, lui gli ha tolto solo l'impianto a gas perché era scaduto, dopo 10 anni devi cambiare bombolone e lui invece di cambiare l'ha tolto, adesso starà consumando benzina a gogo perché consumava molto la benzina e lui ha fatto l'impianto a gas per quello. Faceva 80 km al giorno come minimo solo per andare a lavorare, poi se la usavo per altro ne faceva sempre di più, però 80 ce li aveva sicuri al giorno. Perché 80, scusa? Come fa a fare 80 km al giorno? Vabbè, sono... Quanti chilometri sono se sei proprio tornato? 20 km da casa, 20 andare, 20 a tornare sono 40, poi 20 andare, 20 a tornare la sera sono 80. Sì, sì, sì, infatti hai ragione. Sì. E vabbè, poi faccio di più di 80, poi non giravi da produttore, se no andavi a casa direttamente. No, andavo a pescare a volte, poi salivo a Sassari, prendevo mia moglie, ci andavamo in giro, magari qualche locale, cosa, e già girava, e andavamo nei paesi, andavamo a vedere la neve, ma era un treno quella macchina, ma l'ha detto anche quello che c'è adesso, mi ha detto che è un treno, 350 km non mi ha dato nessun fastidio. Diciamo, una macchina lì è un po' pesantuccia. È pesante, infatti tiene bene la strada, proprio per quello. Se in curva non si muove ad un millimetro. Ed era comoda, Luca, comoda, era un salotto viaggiando. Io lo so. Con la stessa da voglia spazio dietro. Ma se sei lì, cazzo, mi toccano pure. Solo che per i parcheggi è un problema, perché deve avere più spazio naturalmente. Aspetta un attimino, già devo vedere una cosa, aspetta. E io? Stavo guardando un portone sezionale che fa paroppoli. Cosa? Stavo guardando un portone, senti a me. Un portone sezionale, sì. Quelli si mettono nei garage e si aprono con telecomando. Ah, capito. cosa mangi stanotte? Pizza? No, ho mangiato ieri. Anche noi l'abbiamo mangiata ieri. Ma io mi ho mangiato due pizzette al taglio, perché l'altra volta l'ho mangiato quattro, ma l'ho fatta alzare la glicemia. Invece questa volta non me l'hanno fatta salire, perché erano due e vanno bene così. La glicemia? Fanno salire la glicemia se ne mangi troppo. Ma ci mangiano i due, ma ci mangiano i denti. Io ne mangio quattro solitamente, ma due te la fanno salire 136, ce l'avrei, ma non era alta, dai. Invece con 4 mi è alzata pure a 470. Cazzo, no, è così, no, detto. No, infatti non è più più 4. Io sono ingordo, mi piacciono me, perché sono belle croccanti. E poi belle piene di mozzarella, così mi piacciono a me. Anche tu dici, quelle che posso dire erano buonissime, belle piene. Da fuori che le hai prese? Via, croccanti. Stefania, da Stefania le fa bene il cugino. Sì, no, le ho prese da molte volte anche io, prima le prendevo sempre lì. Fatto di comune ho messo una foto, io ti devo vedere dove era, un matrimonio. E poi se c'è un matrimonio oggi. Sì, dovevo andare a un matrimonio a fare karaoke. Cazzo di martedì, matrimonio fanno. No, sarà di domenica. O sabato o domenica il matrimonio. O era? Sicuramente l'ha fatto di domenica o di sabato. Sì, me l'aveva detto che lo doveva fare questo matrimonio. E ora ci vuole qualcosa. Vabbè, poverino. Ti ho chiesto per vedere se c'era qualche lavoro per lui, anche a un bombolaio che porta le bombole, mi ha detto qua, adesso stiamo lavorando un po', poi d'estate non c'è più lavoro, non ci abbiamo più nulla, ci rifacciamo d'inverno, però non stiamo prendendo nessuno proprio per questo motivo, perché d'estate non sta più lavorando nessuno. E ti credo, via. Sono contatti, capito? D'estate dice che se ne stanno lì i bombolati perché non c'è lavoro. Lo so. Beato Antonio, non bisogna più un lavoro perché c'è questo bambino e bisogna crescerlo. Lo credo. Meno già lo buscherà qualche lavoro, dai. Basta presentare un po' di curriculum. Dopo Luca, quando usciamo ti voglio parlare. Ma cosa è successo? No, niente. Ti voglio chiedere il curriculum come l'hai impostato, perché lo voglio far fare anche a Marco. E allora l'ho fatto già. L'ho fatto. Capito. Io non riesco a farlo da internet. L'ha fatto un amico. Ho capito, dai, so anche chi è. Chiara. C'è il radio. Tu sì che la lui magari già. Vabbè, no, già in un modo o nell'altro glielo faccio anch'io. Sì, diciamo non è semplice. E io quello che c'ho l'ho fatto io, però prima non si metteva la fotografia, questo europeo è diverso, capito? Per quello volevo sapere come si imposta. Ah, dici la foto? C'è anche la foto adesso, no? Vabbè, quello che ho scritto giù all'aeroporto non è la foto. Senza l'hai mandato, ma quello europeo non c'è l'obbligo di mettere la foto. No, non c'è bisogno di quello. Che va tanto mi chiamo, io vedo. Chi c'è cantini sono arrivati. La mia sarà già cestinata, questa cestinata. E tent'anno no, c'è lui. Se fa. Magari la volta buona. Ma io proprio non ho. Se mi danno l'ok a fare la prova, quello che è. Subito la macchina mi compro, subito. La Dacia? La macchina, che Dacia? Una macchinetta un diesel, vediamo proprio. Mi serve per viaggiare, alla fine sono senza di Fertiglia, sono 25 km, 50 km al giorno fa. Ma conviene a gas che a gasolio, perché a gasolio costa più della benzina, a gasolio adesso, poi paghi il superbollo. Ah, si paga il superbollo, ma non li pago, cazzo di cosa devo fare? Evasore. Evasore, fa da lui un travaglio, lei ti paga i cosi, capito? Ha ragione. Vabbè, ma prima o poi se uno lo fa, ci dà da fare, già lo trova, presenta curriculum da tutte le parti e via. Già, li ho fatti, non li ho portati, non so poco dove portarli, ma alla fine vogliono sempre esperienza, capirete, con l'esperienza. Adesso devo dare una Peppino, tanto che devo dare la modesta, ma anche se chiamo quella, la modesta ci fa. Adesso è un posto di lusso, io ho visto un booster pack di un Netturbino che nel manco io ribigliavo che si dirà. Già lo so. Ho capito perché. Non ce la faccio. Non mi esce. E deve essere serrauco. Sì. Cioè, come riguarda. Bicicletta poi pigli freddo, ma rigusso, ma pigli freddo. E molto no. Io mi sono gubilato la senosite, la reumatismi alle mani, malgrado avessi quei guantoni, quelli che si usano in moto, che me ne sto mettendo anche adesso, danno un caldo, quei guanti non passano filo d'aria. Beh, le dita mi hanno preso le artrosi, e ne ho uno che va a scatto, fa tac tac, va a scatto il dito. E quando mi vengono i dolori fa così, poi già mi passa, però intanto quando c'è i dolori mi si muove a scatto. E quello è tutto in moto, il dolore al godo, alla senosite, tutte queste cose qua, e così non siamo più ragazzini lui. Infatti ti ho detto, vieni a dire alla bicicletta, con quei soldini li aggiungi per prenderti una macchina come si deve. Vieni a dire, una parabola, la vuoi al regalo, la vuoi, se vuoi dare al regalo non li do per regalo, capito? Non le do. Regalarla, taglio a monete se la rampa, piuttosto non bisogna, non le do, per la batteria me la recupero sempre, che cosa me le uso, per la fila, ma non benissimo con le batterie, cazzo, mi dice, boh, 20 mi pare, a voglia, una fila di quelle dei cinesi, ma comunque sia ne ho batterie, perché mi sono fatto mandare qualche batteria di quelle vecchie, che funzionano benissimo, sono batterie a litio. Cappa. E quanto la stai dando lui? 500. E non te la prendono? No. Dice, se la comprano nuova, comprata la nuova. Che se la fa? Nuova le trovi anche 1000. Insomma, la bici è abbastanza nuova, è andata bene. Qualche graffietti non ce l'ha, ovviamente. E la trovi la teneva sul lavoro, la gazzetta. Lo so, è venuto anche a casa con quella bicicletta, la conosco, è anche bellina, sì, va bene, che non la viaggia bene, salita, insomma, un po', però non ti stanchi, non è una bicicletta normale, ti viene da fare i lati, però pedali, lì sale, mi devo andare a piedi già, Vabbè, ma in discesa vai a pedali solo? In discesa spiego il motore, va. Quando devo fare salita c'è il motore e pedalo e li cammina. Già è un aiuto, dai, è un aiuto. Intanto ti fa fare la ginnastica lo stesso, perché il movimento con i pedali lo fai sempre con le gambe. Esatto, proprio così. Però se tu spegni il motore in salita, manca a balla, ce la fa salire. Lo sale. È pesante. Pesantissima. È una carica quanto ti dura lui? Ma, tipo mi ha detto che mi faceva dai 30 e 40 km, comunque già giro, a voglia. Ti faccio un esempio allora, guarda, se io prendo la bici di mattina, sta mattina sta caricando, la prendo, vado al centro, sono giro al centro, e poi torno a casa, non scende di tacca, ma ci prima scendeva subito di tacca. E poi adesso la riprendo, scendo al corso Ubico dove vado io, quel bar, e arrivo a casa, sicuramente ancora la batteria non scende. Allora dico sì, poi se c'è una predaniera sì, non posso ne scendere, ma cavolo, alla fine la stai usando, è normale che la batteria si scarica. Ma le batterie nuove le hai messe? Sì, come sono le celle nuove, Samsung. K. Cioè, mi è venuto a conversare, su non le vedo perché c'ha... sono sigillate, capito? Vabbè. Dicono che mi dà problema, mi ha dato 6 mesi di garanzia. K. Zio Franco. Che è la sta gente, bu... Sto di un uso, sono un po' riposato. Ho naso chiuso, no, così non guarisco più. È un casino, lo posso fare anche oggi, un casino. Da appena, non fate. Va entrando. Sì, va entrando, cazzo. E anche se ti che ridere. Ragazzi. Questo extracomunitario, E chi è? Oh, è propagazione, non lo so quale bu. Ehi. Ieri due contatti su Starmacher e sono diventato la star della serata. Addirittura la star, cazzo. Cioè gira gira, no. Mi vuoi superare a lato zero. No, ne faccio qualche canzone del Renato Zero, ma lo faccio con la voce mia, no, non lo imito e non lo imito io. Va bene, mi stavo vedendo questo Alfa, CTA, quindi dove se ci fate a cavallo faccia di prova, 1800 euro, 190.000 km. Se la fai il schifo però, che se si arriva di schifo. Cazzo l'afala, cazzo, l'afala. Ho detto fuori sembra sia bella a posto, c'è fuori a posto, ma ha detto che è uno schifo. Beh, infatti, almeno rendi la presentabile. Cazzo, c'è l'afala, costa niente, c'è 5 euro, 10 euro l'afala. Cazzo, cazzo, va bene, Luca, io già devi fare. Che ore sono, Luca? Meno 20. Le 8? Ecco perché sta frignando questo qua, sta già piangendo, vero sì? Vuole scendere giù, vuole scendere. Ehi, vai, vai, già tranquillo, sono qua io. Tanto mi devo alzare dalla maggioranza. Ehi, vado perché sennò magari mi lavo in casa, c'è diarrea, ui. Andate, ci sentiamo, Luda. Saluto anche gli ascoltoni. Ehi, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Chi è avanti? Chi è già? Non lo sento basso. Mirko, Mirko di Alghero. No, sento basso, dai tu. Santiago 7, Radio 4, dai. Capa Mirko, ti avevo riconosciuto, dai, io stavo andando via, ti ho sentito e sono entrato per darti il controllo. Ci sentiamo, buona serata Mirko, c'è Luca, vediamo un po' se ti ascolta, avanti. Lo sento ben basso, ma da correre, c'è Rosso.